Tralalero, tralalà, porco Dio e porco Allà. Tripi tropi. Troppa trippo. Tre topi trotterellano. Tromboni tritati. Bas, bas, cotac, bas. Cotillas, amica.